Italia in controluce. Italia in controluce, la cronaca, il racconto, la narrazione sulle piccole e grandi storie italiane, quelle spesso invisibili, quelle già più conosciute. Buongiorno a tutti da Daniele Biacchessi. La prima storia a giungere da Napoli è quella di un prete, anticamorra, Don Aniello Manganiello, che viene trasferito, nonostante la solidarietà espressa anche ieri in piazza dai cittadini del rione Don Guanella. Il racconto di Paolo Picone. Una fiaccolata per dire di no al trasferimento di un prete anticamorra. Più di 1000 persone sono scese in strada nel rione Don Guanella a nord di Napoli per Don Aniello Manganiello, che dovrà lasciare l'opera guanelliana del capoluogo campano in base alla regola dell'avvicendamento prevista dagli ordini religiosi. Sullo striscione che ha aperto il corteo la scritta Don Aniello non si tocca e tanti cartelli di sostegno e solidarietà della sua gente. E non si tocca Don Aniello, che veramente non se lo merita. Sta facendo di tutto, per tutti e per tutti. Specialmente per i ragazzi, veramente non se lo merita. Per noi è grande, Padre Aniello. Stiamo male, solo a pensare. Ha fatto tanto veramente, e l'abbiamo nel nostro cuore perché ha salvato i nostri figli e ha fatto tanto per questo rione. Il corteo è stata una mobilitazione venuta da quanti hanno ricevuto sostegno morale, affetto, solidarietà dal parroco anticamorra. Don Aniello, arrivato 16 anni fa nel rione, è diventato per tutti un punto fermo. Non sono gli abitanti del rione, ma anche quelli dei quartieri vicini, Miano, Scampia. Tra i fedeli anche Tonino Torre, camorrista durante gli anni 90. Lui ha deciso di cambiare vita dopo che Padre Aniello gli ha regalato una Bibbia mentre era in carcere. E così si è lasciato alle spalle una vita, come egli stesso ha chiarito, fatta di rapine e spaccio. Ma qui sono numerosi i casi come quelli di Tonino Torre. Per questo quartiere Aniello risulta soprattutto fondamentale perché oltre a compiere un lavoro dal punto di vista religioso, compie un lavoro dal punto di vista sociale. Perché comunque di Scampia se ne parla fin troppo, ma alla fine le istituzioni sono pressoché assenti. Quindi Aniello, oltre ad aiutare le famiglie, ha tolto parecchi ragazzi dalla strada, che qui comunque è molto facile perdersi. Se Aniello dovesse andarsene, credo che qui ci sarà il deserto. Quindi dobbiamo fare la nostra battaglia affinché il parroco resti e aiuti e continui ad aiutare la gente di questo rio. Intanto prosegue la raccolta di adesioni per andare a Roma domenica prossima, dove la gente di Don Aniello pregherà davanti alla casa generalizia sperando di essere ascoltata. Contro il trasferimento di Don Aniello, il sostegno bipartisan dei gruppi politici del Consiglio regionale, comunale e anche quello provinciale. Lui, il parroco tanto amato dalla sua gente, come aveva già annunciato, ieri alla fiaccolata non c'era. Ha fatto ritorno al suo paese, Camposano di Faibano in provincia di Napoli, ma resta comunque accanto ai suoi fedeli. Ed ecco come spiegava due giorni fa il suo trasferimento. Sicuramente questo rientra nelle regole e nella vita delle congregazioni religiose, degli ordini, il voto di obbedienza. Certo è che la comunità va preparata e ci vuole tutto il tempo necessario per fare questo. Va preparata anche ad accogliere il nuovo parroco e quindi è permettere anche a chi magari prende il posto mio di poter conoscere, di poter entrare anche nel cuore della gente con un accompagnamento anche da parte mia della comunità religiosa qui presente al centro Don Guanella. Nel cortile della parrocchia di Santa Maria della Provvidenza, a sfilare in corteo ieri non solo giovani ma anche mamme e anziani pronti a scendere nuovamente in piazza contro il provvedimento dei vertici della congregazione a cui appartiene Don Manganiello. E pur di lasciarlo laddove c'è chi ha bisogno di lui, le associazioni hanno scritto addirittura al presidente della Camera Gianfranco Fini. Insomma, la mobilitazione è davvero totale. A dire di no al trasferimento del sacerdote, infatti, c'è quasi tutta Napoli. E chissà che questa partecipazione in massa non abbia già convinto qualcuno a Roma a tornare sui propri passi. Italia in controluce. La seconda storia è di teatro e viene da Roma. Per l'8 luglio la stagione estiva shakespeariana del Globe Theatre a Villa Borghese Daniela Abinello in questo servizio ne ha parlato con Gigi Proietti, Nicola Piovani, Vincenzo Cerami. Qual luce è luce se Silvia io non vedo? Qual gioia è gioia se Silvia non ho accanto? Non vivo più se lei mi assenza, mi toglie la benigna sua influenza che mi dà vita, cibo, luce e affetto. Non evito la morte se fuggo a tal verdetto. Se qui m'attardo, corteggio certa morte. I due gentiluomini di Verona, la prima commedia giovanile di Shakespeare, narra le vicende amorose di Valentino e Proteo, due amici d'infanzia che giocano ad imitarsi, finendo per tradirsi. Con questa commedia si apre dall'8 luglio al Globe Theatre la stagione estiva tutta shakespeariana di questo. Globe? Beh, l'avrete riconosciuto. Era Gigi Proietti che si è inserito per consigliare agli anglofili la maniera più corretta di pronunciare il nome di questo luogo, che è l'unico esempio di teatro elisabettiano in Italia. Proietti, dal 2003, cura la direzione artistica del... Globe? Attenzione al romanesco che dà fastidio. Quest'estate gli spettatori che amano Shakespeare potranno vedere La Tempesta, Molto rumore per nulla, La bisbetica domata e Dulcis in fundo il gran finale dall'8 settembre con Sogno di una notte di mezza estate, il tutto in una cornice teatrale nel cuore romantico di Villa Borghese. Vincenzo Cerami, che ha tradotto I due gentiluomini di Verona, spiega però che per rendere il rispetto dovuto a Shakespeare ha dovuto adattare il testo con qualche lieve invenzione. E ci sono dei giochi, poi ci sono anche, come dire, dei giochi linguistici. Ci sono anche dei riferimenti e delle ritualità dell'epoca che oggi sono scomparse, quindi è obbligatorio in un certo senso prendersi un po' più di libertà, e quindi per questo in questo caso si tratta di traduzione ma anche di adattamento, cioè restando fedele alla mimesi linguistica shakespeariana. Nicola Piovani invece ha dovuto interpretare con la musica quello che Shakespeare cercava di trasmettere con i suoi versi scherzosi. È proprio questo, cioè la partecipazione vera, lirica di chi sta dentro un sentimento amoroso, l'autenticità di questo, e la scherzosità di chi guarda da fuori. Tutti sanno che i drammi d'amore sono drammi soltanto per quelli che li vivono, per quelli che li raccontano, sono oggetto nel migliore dei casi di facezia, se non addirittura di sberleffo. Shakespeare è maestro in tutte le commedie, anche in questa, nel raccontare questo meccanismo del cambiamento improvviso. È sempre una cosa meccanica, esteriore per chi la vede da fuori e altamente lirica e drammatica per chi la vive da dentro. La stagione estiva shakespeariana del Globe è sostenuta dalla Fondazione Silvano Toti perché, come spiega Proietti, anche vendendo tutti i biglietti l'incasso non basterebbe. Le immagini, noi in 3-4 mesi di programmazione abbiamo un centinaio di attori. Però bisogna fare i prezzi molto bassi e popolari, capito? E allora chi paga? Perché non c'è, dice, lo paga con gli incassi, ma se i prezzi sono molto bassi, 10 euro, non è che uno fa gli incassi per pagare. E allora serve un sostegno. L'unica cosa che dico è che per quanto riguarda sia un eventuale sostegno di fondazioni e sia per quanto riguarda le erogazioni pubbliche, eccetera, secondo me la mappa teatrale va riscritta, perché ormai sono situazioni un po' invecchiate, un po' ammuffite, un po' autoreferenziali, un po'. Siamo tutti contro i tagli, ovviamente, perché è così. Tanto nello stesso tempo, secondo me, noi che facciamo questo mestiere dobbiamo fare delle proposte più organiche. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. Radio24.it è il luogo dove potete trovare e ascoltare tutte le puntate di Italia in Controluce. Poi abbiamo il nostro gruppo su Facebook Radio 24 Italia Controluce, la mail controluce radio24.it. Torniamo domani per le ultime due puntate di questa stagione, domani alle 6.30 e 13.30, naturalmente su Radio 24.